dell'angelo, l'angelo della fortuna, con le croci sopra gli occhi e con i tagli sulla schiena. L'ho visto capovolgersi sopra un letto di risate, prima di lasciare il tavolo e con le gambe frantumate. Ho visto cadere l'angelo, l'angelo della guerra, su una spalla aveva un numero e sopra l'altra una medaglia. L'ho visto liquefarsi sopra un secchio di parole, prima di mischiare il vomito con il sangue con la neve. Io l'ho visto all'improvviso che la notte era già muta. Io l'ho visto stare appeso ai piedi di quella cometa, di quel sogno che ho scartato senza avergli dato retta, del tuo cuore che ho bruciato un po' per noia e un po' per fretta. Ho visto cadere l'angelo, l'angelo del vento, con i fiori sullo stomaco e con le lacrime d'argento. L'ho visto torturarsi dentro un cinema all'aperto, fino a che non venne maggio e con il volto già coperto. E poi ho visto pure l'angelo, l'angelo della luna, con gli spilli sulla bocca e con i lacci sulla gola. L'ho visto disperarsi con ai polsi le manette, ci fu chi gridò è colpevole di tutte quelle stelle rotte. Io l'ho visto all'improvviso e la notte era già muta. Io l'ho visto stare appeso ai piedi di quella cometa, di quel sogno che ho scartato senza avergli dato retta, del tuo cuore che ho bruciato.